voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. The only good thing about being wounded in the buttocks is the ice cream. That gave me all the ice cream I could eat. And guess what? A good friend of mine was in the bed right next door. Lieutenant Dane, I got you some ice cream. Lieutenant Dane, ice cream. Are you thinking clear? Erano stati Blonde Redhead e Jennifer Ever, in questo ordine, a chiudere la prima parte di Eclettica, e dopo il blocco pubblicitario invece gli I Was a Cub Scout. Ora qualche parola sul progetto che sta per arrivare. Progetto che ha assunto l'identità di un fantomatico personaggio di nome Juan Mordecai dal Don Juan di Castaneda, questa è una possibile lettura, come anche il Mordecai Richler della versione di Barney che magari prima o poi ritornerà anche all'interno degli Incipit. È una formazione a due che si allarga a seconda delle necessità. A due, composta da David Moretti, chi è che non si ricorda i Karma, e da Andrea Viti, di recente uscita dagli After Hours, dove si occupava principalmente del basso. Formazione che si allarga in quanto possiamo ritrovare i Karma al completo o anche Xavier Iriondo, quindi un altro ingrediente con tracce di After Hours. L'album ha per titolo Songs of Flesh and Blood e il pezzo che vi ascoltate in Eclettica è The Flesh Song. Sweet vanished pleasure, oh, you kill me silently. pretending innocence, but silently killed. Rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh song. Cold, cold, cold, silently. In a dear embrace. Come to my heart, taking lilies from my grave. On a fine sunny day. Gentle grace, sweetheart infliction. Oh, sick beans in a yellow sun. Protesting innocence, but suddenly killed. Rip me down and cut me slow. Premette lo straccio con più forza sul vassoio, sfregando gli angoli anneriti. Anni addietro aveva partecipato a delle cene su a Knightsbridge, a Mayfair. Richard Stalybras, un mercante d'arte, dava delle feste per soli uomini, così le chiamava, nel suo appartamento di Belgrave Place. Tutte persone molto per bene, avvocati, giornalisti, ogni tanto un duca o un parlamentare, convinti, senza tema di smentita, almeno negli anni 70, che la loro presenza sarebbe passata sotto silenzio. Una buona metà aveva moglie e figli. Saul Thompson, un vecchio compagno di scuola, aveva introdotto Owen in quel piccolo mondo e per vari anni Owen ne era stato irretito. Aveva cercato un appartamento al centro di Londra, incoraggiato da Saul a lasciare la periferia per godere i piaceri della città. Ma c'erano sempre stati Hillary e quella casa. Lei e Owen avevano perso la madre da piccoli e questo li aveva resi molto più uniti di tanti fratelli. Non riusciva neanche a immaginare di lasciarla lì, a Wimbledon. L'idea di sua sorella sola lo ossessionava. Così aveva rimandato di anno in anno i progetti di trasferimento. Poi Saul era morto, uno dei primi a essere portati via dall'epidemia. Un anno dopo era morto Richard Stalybras. Owen aveva sempre avuto un legame molto tenue con l'ambiente gay. L'AIDS lo troncò di netto. Continuò a lavorare in azienda, un lavoro che gli piaceva, e nonostante quello che poteva sembrare a un estraneo, non era infelice. Non tutti hanno lo stesso destino, non tutti si innamorano e si accoppiano per la vita. Questo era ancora l'incipit del Principio del dolore di Adam Hassler. was this man giving a little talk, and for some reason he was wearing an American flag for a shirt. I'm gonna bring up some soldiers. And he liked to say the F word a lot. F this and F that. And every time he said the F word, people, for some reason, well, they'd cheer. Saying something never seems to fail. But our guards are down, defenseless, and our walls have cracked. So my heart is beating faster than a heart attack. Kiss the way we were goodbye, goodbye and farewell. First we live, but then we die. Inside you never seems so clear. Momento di due novità, una in sequenza all'altra all'interno di Eclettica, dopo esserci ascoltati esattamente un brano fa, un estratto dall'album d'esordio dei californiani Lavender Diamond, dove i californiani sono anche i Low vs. Diamond, un nome che non è diversissimo da quello della band precedente. Potrete confrontare le cose se vorrete nel leggere la playlist che vi ricordo, o sul sito myspace.com/eclettica dal weekend, o sempre nel weekend direttamente nella vostra casella di posta se vi scrivete per tempo alla lista nera scrivendo giulia@radiorockfm.com. Comunque in sequenza Lavender Diamond e poi Low vs. Diamond. Di questi ultimi vi voglio semplicemente dire che sono una formazione a 5 di Los Angeles ed incidono per la Marrakesh Records. Noi ci siamo ascoltati il pezzo dal titolo Heart Attack. È in arrivo per i primi giorni di luglio, e qui stiamo parlando del brano che seguirà, il nuovo album a nome Uncle, il progetto di James Lavelle, che ritorna con altre collaborazioni prestigiose. Ogni sua prova vede appunto una serie di nomi, ve ne leggo alcuni: ci sarà Ian Astbury dei Cult, ci sarà 3D dei Massive Attack, ci sarà Josh Homme dei Queens of the Stone Age, ed è proprio il brano assieme a Josh Homme che ci ascoltiamo nei prossimi minuti all'interno di Eclettica. Owen, non lo apri? Ma poi aveva conosciuto Ben ed era cambiato tutto. Come? Fece lui. Il vino è sulla credenza. Hillary sollevò un bicchiere in controluce, controllando che non ci fossero macchie. Ci stiamo proprio facendo in quattro, disse lui. Vedendo che non rispondeva, continuò. Che tu ci creda o no, prima ho fatto un commento sul tuo vestito, solo che non mi hai sentito, non l'avevo mai visto. Hai fatto acquisti? Non hai fatto un commento sul vestito, Owen. Hai detto che sono uno schianto vestita così. Hillary guardò fuori dalla finestra sopra il lavandino. Tutti e due videro un altro foglio del Sunday Times rotolare lievemente sulle aiuole. Pensavo che potremmo mangiare l'insalata fuori, disse lei. A Ben farà piacere vedere il giardino. Questo era ancora l'incipit del Principio del dolore di Adam Hazlett. Stay with you before I lose the faith.